Okeye Yona mawa o Eru benzi wangu dia e Angana lela o Mupensi e Eru benzi wangu dia e Tenge yoko kete o Kalakana si mama Eru benzi wangu dia e Amebaki pendo pevu esu.